Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri dedicati al liberalismo. Il primo è La storia del liberalismo in Europa, il secondo è L'economia sociale di mercato e i suoi nemici. E abbiamo con noi questa sera il professor Dario Antisari. Buonasera Antisari. Buonasera a lei, dottor Fabi. E il professor Flavio Felice. Buonasera, professor Felice. Buonasera. Dario Antisari ha curato questo libro, che è stato scritto, il libro Storia del liberalismo in Europa, a cura di Philippe Nemaud e Jean Petitot. È un libro che nasce da un grande studio svolto nel corso degli ultimi anni in Francia attorno al liberalismo. In questa appunto è un libro che parla delle varie vicende del liberalismo nei vari paesi europei, e c'è anche un capitolo sul liberalismo italiano in cui si parla appunto dei grandi liberali, da Vilfredo Pareto a Maffeo Pantaloni, da Luigi Naudi a Benedetto Croce, e Dario Antisari ha curato una parte che è dedicata a due figure del cattolicesimo liberale nel XX secolo, Luigi Sturzo e Angelo Tosato, due sacerdoti che hanno cercato appunto di spiegare come mai il cattolicesimo e il liberalismo possono, anzi devono, andare d'accordo. La storia del liberalismo economico, edito da Rubettino. Professore Antisari, quali sono le particolarità di questo libro? È un libro di grande importanza, pubblicato già in Francia, e che è l'esito di seminari appunto svolti sia alla Sorbona sia al CREA, all'École Polytechnique, dove si dimostra che le idee liberali non sono soltanto idee che provengono dall'Inghilterra o dall'America, ma che l'Europa appunto è ricco di questa tradizione di pensiero liberale. Lei, dottor Fabio, ha toccato la faccenda dei cattolici liberali, ma il cattolicesimo liberale ha una grandissima tradizione che va da Tocqueville, Bastiat, giù, appunto abbiamo parlato di Einaudi, appunto di Sturzo, ma potremmo arrivare appunto a Nova, che è il maestro di Fabio Felice, e così di seguito. La cosa importante è capire che per l'idea liberale, diciamo così, il fondamento dell'idea liberale è che è l'idea di persona, per cui le istituzioni pubbliche devono essere in funzione, ecco, della salvaguardia, della libertà, della creatività, della responsabilità delle singole persone. Questo è il punto fondamentale. Ecco, in questa prospettiva appunto del libro si parla del pensiero liberale in Italia, ho già citato appunto i nomi che fanno parte di questo pensiero liberale, però un pensiero liberale che non ha mai avuto un grande successo, non è mai diventato maggioranza, per dirla chiaramente, in Italia. Come mai, professor Antisari? Le coppie ce ne sono abbastanza, ma quando noi pensiamo che per il pensiero liberale fondamentale è appunto l'idea che non c'è nessun uomo che sia più importante di un altro uomo, questa idea appunto implica qualcosa di ascetismo, cioè che l'altro appunto ha i miei stessi diritti, le mie stesse appunto, ecco, esigenze, e quindi mettersi nei panni degli altri spesso è difficile, perché è molto più comodo appunto pensare a privilegi, difendere privilegi, accettare l'assistenzialismo di Stato, piuttosto appunto che, ecco, vivere una vita del genere. Cioè dobbiamo capire sempre che il liberale è fondamentalmente una scelta. Una scelta è una persona poi che è responsabile, che deve essere responsabile della società. Ecco, in questa prospettiva vorrei chiedere al professor Flavio Felice, che ha curato, ricordo, il libro L'economia sociale di mercato e i suoi nemici con Francesco Forte e Clemente Forte, se questa economia sociale di mercato, in cui appunto questo libro ritorna con testi importanti, soprattutto sul fronte tedesco, perché è una realtà che nasce e si sviluppa nel pensiero tedesco, ecco, questa realtà si inserisce nel filone del liberalismo, o in che cosa differisce? Flavio Felice. Sì, in effetti possiamo dire che la teoria del modello dell'economia sociale di mercato, rappresentato sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel secondo dopoguerra, è il tentativo di implementare la teoria liberale lì dove il liberalismo aveva avuto oggettivamente dei seri problemi. Nella storia del liberalismo europeo, di cui stiamo parlando in questo momento, infatti c'è proprio un capitolo dedicato all'economia sociale di mercato come tentativo di implementazione della teoria liberale. In effetti quella teoria liberale sviluppata in Germania a cavallo tra le due guerre mondiali aveva visto in Walter Eucken, nel circolo di Friburgo, la sua centrale operativa. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale verrà ripresa come teoria e implementata da Erhard, Müller-Armach, Wilhelm Röpke ed altri economisti, i quali tenteranno appunto di rendere in forma istituzionale quella visione del mercato, una visione del mercato non necessariamente laissez-fairista, anzi che si oppone al dogma laissez-fairista, ritenendo che un mercato lasciato a se stesso in realtà alla lunga, presto o tardi, produce situazioni di privilegio che poi si traducono in soluzioni oligopoliste e tendenzialmente monopoliste. Quindi la necessità di uno Stato regolatore, di uno Stato che non intervenga direttamente ma che regoli il mercato e che lo indirizzi dove il mercato non riesce ad arrivare. In questo senso, ecco, non si tratta in questo libro solo di argomenti storici del dopoguerra, ma per esempio in tutti gli scritti di Müller Armack si parla anche di un'analisi molto recente di questo pensiero della realtà attuale. Ecco, professor Felice, in questo senso chi sono i nemici? Perché questo libro si intitola L'economia sociale di mercato e i suoi nemici? Sì, noi abbiamo cercato insieme al professor Francesco Forte, abbiamo cercato di individuare appunto un elemento che caratterizza la teoria dell'economia sociale di mercato. Noi sappiamo che il grande discredito che questa teoria ha avuto negli anni 60 è dovuto in parte ad un'interpretazione che ne diede anche Luigi Einaudi, ovviamente non volendo screditarla, anzi volendola assumere, quando la definì terza via. Nella definizione di terza via ovviamente in molti hanno interpretato l'economia sociale di mercato come una forma di economia mista dove lo Stato interviene per risolvere i problemi che crea il mercato, quindi supponendo che il mercato crei più problemi di quanto sia in grado di risolvere, il mercato a questo punto assume un ruolo residuale e lo Stato invece la fa da padrona. Quindi questo possiamo dire che sia un nemico, ed è un nemico tipicamente interno, cioè il ritenere che lo Stato non debba regolare le pratiche del gioco, bensì debba intervenire per spostare le lancette dell'orologio. Un nemico esterno invece è il totalitarismo, cioè la pretesa che dall'esterno viene che lo Stato sia per ragioni logiche in grado di interpretare meglio i fenomeni sociali di quanto non siano invece gli individui, le persone che operano direttamente sul mercato. Ecco perché abbiamo distinto i nemici interni dai nemici esterni. Ecco, in questa prospettiva vorrei rivolgermi a Dario Antiseri. Ecco, il liberalismo, quello vero di cui si parla in questo libro, La storia del liberalismo in Europa, non esclude, anzi prevede un compito dello Stato, un compito preciso all'ordinamento giuridico, e quindi è ben lontano dall'anarchismo. Dal professor Antiseri. Sì, certamente, guardi che quello diceva Felice, ecco, i nemici interni quando pensano appunto che lo Stato non debba esistere, proprio Einaudi c'è un passo in cui dice, no, che soltanto coloro che non hanno letto i classici di liberalismo, ecco, sostengono appunto che lo Stato appunto per i liberali appunto non esiste. Proprio quello che diceva il professor Felice, guardi che i friburghesi, la scuola di Friburgo, Oiken, von Ditz e gli altri appunto vogliono costruire uno Stato forte, fortissimo, contro appunto lo Stato totalitario, ma forte in difesa della libertà e della solidarietà. Questa è stata la grande lezione della scuola di Friburgo. In sostanza, ecco, si può dire che lo Stato, dove necessario, la competizione ovunque storicamente possibile, ma uno Stato necessario è lo Stato che pone la cornice e che non interviene appunto, ecco, tutti gli ambiti della vita sociale. Ecco, in questa visione indubbiamente l'economia sociale di mercato si pone come un mezzo di soluzione, un mezzo per affrontare, per giudicare i problemi. Diciamo, professor Felice, che di passi da compiere ce ne sono ancora molti però su questo fronte. Sì, ce ne sono molti e talvolta sembra persino difficile andare avanti nella situazione nella quale ci troviamo. Ad ogni modo io credo che già sia stato fatto molto a livello europeo, perché non dobbiamo dimenticare che la più grande invenzione dei teorici dell'economia sociale di mercato sia stata alla fine dell'Unione Europea e processi di integrazione europea. L'ultimo saggio in termini di tempo che noi abbiamo pubblicato sulla nostra antologia è di Müller Armack del 1978 e rinvia esattamente alla possibilità di una moneta unica europea dopo aver fatto tutti i passi necessari di avvicinamento a questo obiettivo. Ecco, quindi probabilmente qualcosa è andato storto, non tutto è stato fatto bene, però sicuramente questa era la strada che andava percorsa ed è la strada sulla quale siamo chiamati ancora a camminare per implementare maggiormente il tema della libertà. Ecco, una strada che avrà anche dei momenti di incontro. Vi ricordo per esempio che martedì prossimo, 19 marzo, alla Pontificia Università Lateranense ci sarà un convegno sull'economia sociale di mercato e i suoi nemici interni e esterni, moderato da Salvatore Carruba, che spesso è su Radio 24, in cui ci sarà appunto il professor Flavio Felice, ma anche il professor Alberto Quadriocurzio, che parlerà del liberalismo sociale, Maria De Benedetto, Francesco Forte e anche i rappresentanti dell'associazione Konrad Adenauer di Berlino. no, che organizzano appunto con la Pontificia Università Lateranense questo incontro. Io ringrazio il professor Fabio Felice e il professor Dario Antiseri. Abbiamo parlato del libro L'economia sociale di mercato e i suoi nemici, edito da Rubettino, 468 pagine per 28 euro e un'imponente storia del liberalismo in Europa a cura di Philippe Nemo e Jean Petitot, edito anch'esso da Rubettino, sono ben 1256 pagine per 56 euro. Grazie anche a Roberto Scartritti in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, così come gli altri programmi di Radio 24 e le altre puntate di Economia in Pagine, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.